Radio 24 Reportage. Voglio che la società mi riconosca, di Alessandra Schepisi. Nessuno sa e nessuno nemmeno capisce, nessuno vede l'amore, nessuno lo intuisce. Conviviamo da 17 anni, è una relazione bella stabile, abbiamo casa insieme da 17 anni, non avendo la possibilità ancora delle nozze mi accontenterei di un'unione civile come fondamento minimo per gli omosessuali in Italia. Voglio che la società riconosca la mia unione. Qua in fondo. Sono calabrese, vivo a Barcellona dal 98, sì, 15 anni, ho un marito. Noi stavamo insieme dal 99, sono 14 anni, ci siamo sposati nel 2011. Lui di certo non sa e di certo non capisce. Claudio e Silvio, due storie simili ma anche molto diverse. Claudio vive da anni con il suo compagno in Italia, dove non può né sposarsi né avere un riconoscimento giuridico della propria unione. Silvio vive a Barcellona e si è sposato 2 anni fa. Di questo parliamo: matrimonio gay, unioni civili, diritti e doveri delle coppie di fatto e delle possibili forme di riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso. E allora ascoltiamo ancora la storia di Silvio, che grazie al fatto di vivere in Spagna ha potuto coronare il suo sogno. Silvio, tu ti sei sposato in Spagna e ci puoi raccontare se è stata una grande festa o una cerimonia intima? Non è stata intima, nel senso che volevamo entrambi, appunto, essendo una relazione di ormai da tanti anni, abbiamo gli amici in comune, le famiglie si conoscevano, quindi abbiamo deciso di fare la festa di matrimonio con inviti, i partecipanti. Eravamo 180. Ci siamo sposati a Sitges, che è una località balnearia vicino a Barcellona. Il comune ci ha dato a disposizione il Salon d'Oro, che è un loro posto di cerimonie. Siccome qui in Spagna praticamente con la legge del 2006 l'equiparazione è totale, quindi non c'è nessun'altra differenza con un altro matrimonio civile. Prima di noi c'era una coppia eterosessuale, poi di noi, poi un'altra coppia eterosessuale e così via. Quindi anche scambio degli anelli avete fatto? Sì, sì. Musica all'ingresso, io e Ramon, che è mio marito, ci ha accompagnato sua madre. Siamo arrivati lì davanti all'ufficiale, ci ha fatto il discorso e poi niente, scambio degli anelli, firme, musica e fuori. Siamo partiti con la macchina, con i barattoli, i palloncini, a fare il giro del paese e poi ci siamo visti con tutti gli altri al banchetto. Ecco, insomma, una bella festa. Ma adesso pensate di avere figli, di adottarli? Ma ne abbiamo discusso, il problema è un poco l'età. Io ho 46 anni, Ramon ne ha 49, punteremo tutto sui nipoti. Qui, tra l'altro, essendo un'equiparazione totale, non c'è neanche stata la discussione sull'adozione, sì o no, quindi noi potremmo adottare. Come sono viste le coppie come la tua a Barcellona rispetto allo sguardo che senti in Italia? C'è uno sguardo diverso? Direi, nel senso, qua proprio non c'è, io vado al... Non so, quando mi sono operato mi sono operato di una spalla, in ospedale io presento a Ramon mio marito lì è quello che decide, ovviamente, perché sempre quando c'è un'anestesia totale. Quello che io vedo qui è la normalizzazione a tutti i livelli. Io ho colleghe cui figli piccoli, quando dico questo è Ramon, e la madre gli dice alla figlia: sì, è un Ramon, un amico speciale di Silvio. E la bambina di 6 anni ha detto: non è un amico speciale, è suo marito. Quindi quando vai in Italia che cosa succede? È un po' una sorta di limbo. Io devo dire che sono celibe. Paradossalmente vengo in Italia, mi sposo con una donna, sono a posto, e poi in Spagna sarei bigamo. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Un dibattito molto acceso quello su unioni civili e nozze gay, in Italia, dove manca una legislazione sul tema, e in Europa, dove i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono in molti paesi una realtà. Anche la Francia socialista di Hollande ha compiuto un primo passo in avanti con l'approvazione sabato scorso da parte dell'Assemblea nazionale di una norma che elimina l'esistenza di una differenza di sessi come condizione fondamentale per il diritto al matrimonio. Il dibattito parlamentare è ancora in corso. E così la Gran Bretagna, dove martedì è arrivato il primo sì alle nozze gay alla Camera dei Comuni. Il voto della Camera dei Lord arriverà a maggio, ma se approvata la legge permetterà dal 2014 alle coppie omosessuali di sposarsi con rito civile e anche religioso, dove vi siano confessioni che lo permettano. Un percorso cominciato nel vecchio continente più di 10 anni fa. Sentiamo allora qual è la situazione nei vari paesi. Paesi Bassi. Dopo aver creato nel 1998 una partnership aperta agli omosessuali, l'Olanda è stato il primo paese, nell'aprile 2001, ad aprire ai matrimoni civili per le coppie dello stesso sesso. Obblighi e diritti dei congiunti sono identici a quelli delle coppie eterosessuali, tra cui quello di adozione. Belgio. I matrimoni tra omosessuali sono legali dal gennaio 2003. Le coppie gay hanno gli stessi diritti di quelle etero, ad eccezione delle leggi sui figli. Hanno tuttavia ottenuto nel 2006 il diritto di adottare dei bambini. Spagna. Il governo socialista ha legalizzato nel luglio 2005 le nozze tra omosessuali ed è possibile, per queste coppie sposate o meno, adottare dei bambini. Norvegia. Una legge del gennaio 2009 mette sullo stesso piano le coppie omosessuali ed eterosessuali, sia in merito alle nozze che all'adozione dei bambini. Svezia, pioniera in materia di diritto all'adozione, concede dal 2009 alle coppie gay di sposarsi civilmente o tramite rito religioso, con il sostegno della Chiesa svedese. Portogallo. Una legge del 1 giugno 2010 modifica la definizione di matrimonio, cessando il riferimento tra sessi diversi. Ma per le coppie gay è escluso il diritto all'adozione. Insomma, l'Italia è l'unica, insieme alla Bosnia e Erzegovina e a gran parte dei paesi dell'est, a non avere una legislazione in materia. Del resto, c'è da dire che l'Unione Europea non può entrare nel merito. La questione è lasciata alla singola competenza dello Stato membro, anche se sono riconosciuti alcuni diritti, come ad esempio quello alla mobilità di un partner di una coppia di fatto. Ma tornando all'Italia, arriverà questo cambio di mentalità? Cosa avviene a livello di opinione pubblica? Abbiamo raccolto qualche testimonianza. Sentiamo. Sono a favore. Se sono innamorati hanno il diritto di esprimerlo in tutti i loro modi, anche col matrimonio. E io sono d'accordo, anche se insomma qua in Italia è un po' difficile che succede, insomma, che passa sta legge e nozze gay. È contrario, la famiglia è fatta da papà e mamma. Io sono contrario, non vedo proprio tutta questa necessità. Per me sta tutto bene, tutto il matrimonio, tutti i diritti, tutto quello, meno che i figli. Per me no. Perché no? È un concetto di famiglia allargata, diversa da quella canonica e tradizionale. Insomma, un'opinione pubblica spaccata, e anche tra i politici italiani la parola nozze rimane un tabù, per non parlare di figli e adozioni. Ma sulla necessità di riconoscere almeno qualche minimo diritto alle coppie di fatto e omosessuali sembrano comunque essere tutti d'accordo. Io sono per un rafforzamento, e in Italia c'è ancora molto da fare, per i diritti civili delle coppie omosessuali, sul matrimonio tra coppie omosessuali, sulla adozione, credo che siano temi altrettanto importanti. Io li vedo collocati un po' più in là. Io sono assolutamente d'accordo su una regolamentazione da parte del codice civile dei rapporti nelle coppie di fatto. Non posso essere d'accordo sul matrimonio gay. E non c'è ragione che vengano ancora negati a milioni di cittadini i diritti basici, che si neghi agli omosessuali italiani il diritto all'unione civile. Non voglio stare dentro un acronimo, voglio poter dire che a 54 anni mi voglio sposare con il mio compagno. Io rispetto il sentimento del presidente Vendola, che dice: vorrei sposarmi col mio compagno. Ma questo non mi induce affatto Stato a ritenere che i connotati del matrimonio, così come è previsto dalla Costituzione e dalla legge dello Stato, debbano essere cambiati. Il matrimonio l'abbiamo detto, siamo completamente a favore della libertà di chiunque di sposarsela. Siamo favorevoli al riconoscimento delle unioni civili delle coppie omosessuali, incluso il diritto al matrimonio e all'adozione. Da registrare in questi giorni anche un'apertura da parte della Chiesa. No alle nozze gay, sì al riconoscimento di diritti per le coppie di fatto omosessuali secondo il codice civile, ha detto l'arcivescovo Vincenzo Paglia, neo presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Ma secondo molte associazioni che difendono i diritti degli omosessuali, non si tratta di vero passo in avanti. Aurelio Mancuso, presidente di Equality Italia. Si tratta di un'apertura dal punto di vista dei toni, nel senso che finalmente il Vaticano dice che anche le coppie omosessuali hanno dei diritti, ma dal punto di vista della sostanza non c'è alcuna apertura, perché richiamarsi ai diritti individuali all'interno di una coppia utilizzando il diritto privato significa il nulla. Devo dire che questa volta la politica discute anche in campagna elettorale di questa questione. Staremo a vedere i fatti successivamente, perché troppe volte sono state promesse che poi non sono state mantenute. Staremo a vedere dunque se le promesse verranno mantenute, se con il prossimo governo cambierà qualcosa. Di certo, almeno una minima regolamentazione della materia è necessaria. Su questo sembrano concordare tutti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.